Cina, Taiwan, Xi Jinping e le due sessioni, Tsai Ing-wen e il suo no a un paese, due sistemi. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Ms. Tsai, in an inauguration speech, said that Taiwan will not accept becoming a part of China. She's really carrying forth the mandate of the Taiwanese people. Any act that separates the island from the mainland will not be tolerated. That was Beijing's response to Taiwan's President Tsai Ing-wen's inauguration for a second term. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16.08, tra pochi secondi, una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. La squadra: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. In assistenza Luca Cremonese e in console ritroviamo Valeria Bernardi. 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp, ma anche i social. Cercateci su Facebook, siamo la pagina Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Infine, se amate Twitter potete cinguettare. I due account da tenere d'occhio sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. E c'è già qualcuno che velocissimo, tempo, neanche il tempo della sigla, sta già digitando messaggi e commenti al 349-238-6666. Fatemi però raccontare meglio il tema di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato si sta svolgendo una enorme liturgia politica in Cina, le due sessioni. Cercheremo di capire meglio che cosa sono, di cosa si sta parlando e che cosa potrà scaturire di nuovo da questi due appuntamenti politici. E poi Tsai Ing-wen, la presidente di Taiwan, pronta al secondo mandato, ha appena giurato e ha fugato ogni dubbio se casomai vi fosse la possibilità da parte di Pechino di allungare gli artigli su Taiwan. Ha detto no a un paese, due sistemi. Con quali conseguenze? Taiwan è importantissima, lo è stato Hong Kong in questo braccio di ferro politico tra Pechino e Hong Kong stessa. Taiwan, forse in maniera più silenziosa, quantomeno dal punto di vista mediatico, sta diventando forse la vera spina nel fianco per il regime di Pechino. Questo è il tema di oggi, 349-238-6666, e come ogni giorno, Valeria, andiamo a sfogliare i nostri dossier. Il primo che vi sottopongo è di natura monetaria finanziaria, ma avrà conseguenze politiche e come. Parigi infatti manda in pensione il vecchio franco CFA, la moneta unica che è ancora in vigore in diversi paesi africani. Quasi tutti sono colonie francesi, sono paesi francofone. Il Consiglio dei Ministri infatti francese ha adottato ieri questo testo che era attesissimo da tutti i paesi dell'Unione Monetaria dell'Africa Occidentale. Si mette fine in sostanza al sistema gestito da Parigi e si dà il via alla trasformazione del CFA in eco, mantenendo però la parità fissa con l'euro. Quello che cambia, fra le altre cose, è la fine della centralizzazione delle riserve di cambio degli stati dell'Africa occidentale presso il tesoro francese. Questo obbligo veniva visto e veniva additato da molti politologi, ma anche osservatori, come una sorta di giogo, un vessillo postcoloniale che ancora gravava su questi paesi. Tanto che Sibeth Ndiaye, scusate, che è portavoce del governo francese, personaggio politico di origine senegalese, ha detto è la fine di un sistema monetario, ma è soprattutto un simbolo, una svolta simbolica che si scrive nel rinnovamento delle relazioni tra Francia e Africa per scrivere una nuova pagina della nostra storia. I negoziati sono durati per tutto il secondo semestre del 2019, ricordo, Francia da una parte e 8 paesi africani: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo. Vedremo quali saranno le reazioni, poi per quelle strettamente economiche evidentemente bisognerà aspettare mesi se non anni. Intanto in Israele sono aumentate le misure di sicurezza per i giudici del tribunale che domenica 24 maggio a Gerusalemme darà il via al processo al premier Benjamin Netanyahu. Ricordo che le accuse che pesano contro il leader del Likud sono quelle di corruzione, frode e abuso di potere. La notizia, riportata da vari media israeliani, ricorda che lo Shin Bet, che è il servizio di sicurezza interno, sta valutando la situazione per in effetti andare a, come dire, coprire e osservare e raccogliere informazioni su quello che è un unicum a tutti gli effetti nella storia dell'importante paese, un premier in carica che finisce sotto processo. La scorta è stata in particolare assegnata alla pubblica accusa, che è l'avvocatessa Liat Ben Ari. Vedremo se questo segnale, che sicuramente mostra tensione all'interno della scena politica, evidentemente speriamo di no, non debba tramutarsi in qualche timore ben più vigoroso da parte dei servizi segreti. E poi Libia, l'avete sentito dal GR, sta inquietando e non poco gli analisti questa notizia che è stata riportata in particolare da Bloomberg, mentre Haftar annuncia la più grande campagna aerea della storia libica. Sarebbero arrivati nell'est del paese questi 8 velivoli, tra cui 6 MiG e 2 Su-24, scortati da jet dell'aeronautica russa. Finché non vedremo la prova di forza sul campo, se e casomai vi sarà, non potremo capire se questo è un ultimo tentativo da parte del generale Haftar di recuperare le posizioni a sud, a est e a ovest di Tripoli. Solo poche settimane fa sembrava Tripoli dovesse cadere da un minuto all'altro, e poi l'offensiva, soprattutto grazie alle forze turche presenti in campo, hanno decisamente ridisegnato quelle che potrebbero essere le sorti del conflitto. Certamente c'è paura per una possibile escalation, e opinione mia personalissima, quindi la prendete e la gettate nel cestino, quella telefonata che è intercorsa fra Lavrov e Cavusoglu, ho tutta l'impressione che sia niente più che una leggera, debole tessitura diplomatica, perché poi sul campo evidentemente le cose fino adesso non sono andate esattamente come dovevano. E poi c'è un altro mistero, perché ieri sera parecchi media italiani hanno dato grande evidenza alla notizia della cattura di uno dei principali leader dello Stato Islamico, tale Abdul Nasser al-Kardash, che era stato descritto come uno dei possibili successori di al-Baghdadi, lo ricorderete, capo dell'ISIS ucciso nell'ottobre del 2019 in un'operazione delle forze speciali statunitensi a Idlib, nord-ovest della Siria, quella stessa Idlib che ancora è sotto la morsa delle forze di Bashar al-Assad, il presidente siriano coadiuvato dai russi. La notizia non è stata pubblicata e ripresa da nessun grande media internazionale, se non qualche tabloid, perché ci sono parecchi dubbi proprio sull'identità dell'uomo. Abdul Nasser al-Kardash sarebbe stato arrestato lo scorso anno dalle forze democratiche siriane, sono quegli arabi e quei curdi che si sono messi insieme in funzione anti-ISIS, e poi consegnato nei giorni scorsi proprio alle forze irachene. Il punto è che l'attuale capo dell'ISIS non è Abdul Nasser al-Kardash, ma dovrebbe, dobbiamo sempre usare il condizionale, essere Amir Mohammed Abdul Rahman al-Mawi al-Sabi. E direte voi, nome lunghissimo, come ci fa a confondere? Beh, è molto semplice, perché uno dei nomi di guerra con cui è conosciuto il presunto capo dell'ISIS è proprio Abdullah Kardash, quindi un nome molto simile che avrebbe tratto in inganno alcuni osservatori. Stiamo alla finestra, continuiamo a guardare, continuiamo a cercare conferme. E poi in Yemen, perché lì arriva l'allarme e lo lancia MSF con un comunicato stampa molto duro che è stato diffuso poche ore fa. Il numero di morti nel centro di trattamento per il Covid-19 è la prova di una catastrofe più ampia su cui Nazioni Unite e paesi donatori devono assolutamente mobilitarsi. Dal 30 aprile al 17 maggio 173 pazienti, 68 morti nell'unico centro, l'unica struttura dedicata al coronavirus per tutto il sud dello Yemen. Verrebbe da dire piove sul bagnato, situazione di conflitto, situazione tesissima che abbiamo raccontato tante volte, epidemia di colera e qui una insufficiente gestione per forza di cose del Covid-19. Torneremo sicuramente a occuparci di Yemen. Adesso però vorrei parlarvi di Sudan e Sud Sudan. In particolare, in Sud Sudan è coinvolto anche qui, anche stavolta, alcuni membri dello staff di Medici Senza Frontiere. Vi sono stati degli scontri nello stato orientale di Jonglei e pensate, 287 persone uccise, 300 ferite, scontri che sono scoppiati fra due comunità etniche diverse, abitazioni date alle fiamme. È intervenuta anche una missione investigativa dell'ONU. cercheremo di capire meglio qualcosa col prossimo ospite, ve lo presento subito, è Antonella Napoli, che dirige il magazine Focus on Africa, collabora con Repubblica Espressa tra le altre cose, e con lei analizzeremo anche un'altra serie di scontri che sono avvenuti in Sudan. Antonella, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo. Ben ritrovati, grazie dell'invito. Allora, il martoriato Sud Sudan, il più giovane stato dell'Africa, sempre questo braccio di ferro sullo sfondo tra Salva Kiir e Riek Machar, cosa è accaduto stavolta? Questa tensione etica sembra essere esplosa in maniera gigantesca. Eh sì, purtroppo siamo abituati a vedere queste ondate di violenza sempre nell'ottica della gestione del potere in Sud Sudan, e a pagare però sono sempre e soprattutto gli operatori sul campo, ad esempio delle organizzazioni non governative. In questo ultimo scoppio di violenze ci hanno rimesso la vita anche degli operatori di Medici Senza Frontiere. Questo governo che purtroppo, nonostante sia di unità nazionale, nonostante sia partito con le migliori intenzioni, comunque non si riesce a garantire la stabilità di un paese, perché ricordiamolo, è il più giovane paese al mondo, è nato dopo una separazione dal Sudan, dal nord, con grandi speranze, e purtroppo, ahimè, dopo pochi mesi era già di nuovo guerra civile, con la fuoriuscita di Machar, che era vicepresidente. Queste due etnie che continuano a scontrarsi, anche se poi magari l'accordo politico si trova, ma si fa sempre fatica a trovare poi sul campo l'accordo tra l'etnia che fa capo a Salva Kiir, che è il presidente, e quella invece che ha sempre sostenuto Machar, e quindi i gruppi, anche gli ex gruppi ribelli, tendono poi a scontrarsi, a contendersi quel poco che poi c'è di risorse in questo paese, che è tra i più poveri al mondo. E che questo è uno dei grandi paradossi, perché colgo l'occasione, Antonella Napoli, adesso andremo più a nord, scusate il gioco di parole, il Sud Kordofan, però in Sudan, il Sud Sudan, grandi giacimenti petroliferi, però le raffinazioni sono sempre avvenute nel nord, da ciò una serie di diatribe. Però andiamo in Sudan, a Khartoum, perché vi ricorderete, ne abbiamo parlato qua a Nessun Luogo Lontano, dopo la dipartita di Omar al-Bashir si era tentato faticosamente quell'accordo, un governo nazionale che includeva sia anime civili che anime militari, anche con qualche perplessità, no, Antonella Napoli, perché c'era qualche rigurgito del vecchio e doloroso passato, evidentemente ancora che si annida. Ecco, vi sono stati almeno 24 morti, scontri tra truppe paramilitari, peraltro sto leggendo proprio il pezzo di Focus on Africa che Antonella Napoli dirige, una nuova avventura che tenta di raccontare con dovizia di particolari ciò che accade nel continente africano. Ecco, qui che cosa sta succedendo? Ancora una volta un vuoto di potere? C'è questo governo di transizione troppo debole per gestire questi conflitti? Purtroppo sembra proprio di sì. Tra l'altro il premier incaricato, un economista anche di altissimo livello, che è Abdallah Hamdok, puntava proprio sulla soluzione di questi conflitti per abbattere i costi enormi delle truppe impegnate in queste in questi scontri, perché sono più fronti aperti, cioè il Kordofan, ma c'è ancora aperta la crisi in Darfur, dove i livelli dell'SLM sono ancora molto, molto attivi. E infatti, oltre a questi ultimi scontri che sono in corso anche in queste ore nel sud Kordofan, nell'area dei Monti Nuba, che sono sempre stati difficili da controllare per Khartoum, qualche giorno prima c'era già stata una grossa sacca di violenza esplosa nel Darfur, a Kassala, lì ci sono state altre 60 vittime e in entrambi i fronti sono coinvolte le RSF e quelle che sono le milizie paramilitari che affiancano l'esercito governativo, e tu lo sai benissimo perché ne abbiamo raccontato tanto, le famigerate milizie Janjaweed, no? Quelle del, i diavoli a cavallo, come bravissimo, dei massacri in Darfur. E dicevo, l'economia è un po' il nodo, la chiave per il processo, per il successo del processo democratico che con grande difficoltà si sta cercando di portare avanti, e con un tavolo di pace, di colloqui che si tenta a portare avanti, perché comunque si era riusciti in qualche modo a portare al tavolo i vari gruppi, sì, ma tenta ad andare avanti. Sì, sì. E purtroppo questo attenta, infatti Suleiman Ahmed Hamid, che è un nostro corrispondente da Khartoum, puntava proprio l'accento su questo, cioè questi nuovi scontri, lo scoppio di questa violenza in Darfur come nel Kordofan può far detagliare la transizione del paese verso la democrazia. E questo andrebbe, perdonami, ti interrompo, Adriana Napoli, andrebbe in maniera drammatica a vanificare quel gigantesco sforzo che ha portato alla fine della dittatura di Omar al-Bashir. Sarebbe un paradosso storico incredibile, però ai noi tante storie recenti e contemporanee ci hanno abituato a questi bizzarri rivolgimenti degli eventi. Antonella, devo davvero chiudere questa pagina, però ti ringrazio tantissimo, ricordo a tutti, Antonella Napoli dirige il magazine Focus on Africa, firma di Repubblica Espresso, esperta di Sudan e Sud Sudan. Grazie mille Antonella, buona giornata e buon lavoro. A voi, a presto. Intanto al 349-238-6666 c'è qualcuno che punta il dito, in particolare contro di me, evidentemente. Paolo da Roma, bel modo di informare, nessuno ricorda che lo schifo del Sefa è stato sollevato dal Movimento 5 Stelle nel 2019 con rabbia di Parigi e appoggio dei paesi africani. Bel modo di informare, così un ascoltatore che evidentemente è stizzito per il fatto che non abbiamo ricordato che all'epoca il partito italiano appoggiò quella che doveva essere una riforma. Io mi permetto sottovoce e in punta di piedi di sussurrare che dubito fortemente che le pressioni dell'epoca abbiano portato all'accordo di 8 paesi africani e di Parigi rispetto alle loro ex colonie. Qualcun altro torna sul tema Libia, gli 8 aerei russi impegnati, ci torneremo sicuramente nei prossimi giorni. Adesso però, Valeria, andiamo a Pechino. E proprio mentre vi parlo, scorrendo un po' di schermi delle grandi media internazionali, non ce n'è uno che non riporti le immagini delle due sessioni. È una liturgia particolarmente appariscente, particolarmente imponente, molto altera, domina evidentemente il colore rosso. C'è un Xi Jinping che osserva e gli uomini politici presenti nella gigantesca sala. C'è qualcuno, il prossimo ospite, che questa liturgia l'ha vissuta e ce la può raccontare, perché le due sessioni sono in corso oggi e domani. Che cosa sono? Che cosa si decide? Antonio Taglia, uno degli autori di questo programma. Buongiorno, ben ritrovato Anto. Buongiorno Giampaolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo da una brevissima definizione per noi, come dire, poco avvezzi a masticare le cose cinesi. Cosa sono le due sessioni? Le due sessioni sono un importante appuntamento politico con un carattere molto cerimoniale e che di fatto però si limita a vidimare delle decisioni già prese. Sono due appuntamenti che si svolgono allo stesso tempo, sono due assemblee che composte da 3.000 delegati. Una si chiama la Conferenza Consultiva Politica del Popolo Cinese, e sostanzialmente sono appunto delle sorta di personaggi molto importanti che vengono chiamati a fornire dei suggerimenti su come governare il paese. Tanto per fare un esempio, della conferenza consultiva fanno parte persone come l'attore Jackie Chan o Yao Ming, il famoso giocatore di basket, sì, ma anche molte altre personalità. E questa è diciamo la prima sessione, quella che si apre domani, che si apre oggi, scusate, sì. Domani si apre l'Assemblea Nazionale del Popolo, che è una sorta di Parlamento cinese, ma appunto essendo la Cina, come sappiamo, non una democrazia ma un regime diverso, l'Assemblea Nazionale del Popolo si riunisce una volta sola all'anno e di fatto si limita a prendere atto delle decisioni che vengono prese dal governo e, come viene definito appunto un Parlamento copia carta carbone, a attuarle. Allora, nelle parole di Antonio Talia, da un lato, come dire, l'estrema forma che permea questo appuntamento, dall'altro però, Antonio, ne parlavamo stamattina, il South China Morning Post tira fuori uno scoppone, una notizia che, se fosse vera, insomma, a parte che lo scopriremo tra poche ore. Di che si tratta? Cosa ha tirato fuori dal cilindro questo giornale? Allora, secondo il South China Morning Post, che è un quotidiano informatissimo di Hong Kong, il governo cinese sta avviando tutta la procedura per cambiare le normative sulla sicurezza a Hong Kong. Di che cosa si tratta? Tra l'altro le prime conferme stanno già arrivando, perché il portavoce delle due sezioni, Zhang Yesui, sta confermando alla Reuters. Sappiamo che Hong Kong è una zona, regione amministrativa speciale della Cina, quindi sì, viene regolamentata secondo il principio un paese, due sistemi. Sappiamo che Hong Kong ha appunto un suo mini parlamento, ha delle sue leggi specifiche, ma fa sempre parte della Cina, pur avendo tutta una serie di specificità che concedono maggiori libertà al popolo cinese. Sì. Sappiamo anche che a Hong Kong si sono svolte delle manifestazioni da ormai un anno che protestavano contro l'influenza cinese all'interno della regione amministrativa speciale di Hong Kong. Ebbene, sembra che durante queste due sessioni il governo di Pechino stia finalmente facendo la sua mossa. E di che cosa si tratta? Si tratta di una legge, il famigerato articolo 23, che si cerca di introdurre fin dal 2003, che dovrebbe in qualche modo introdurre una nuova legge sulla sicurezza, e in particolar modo contro attività secessioniste, interferenze straniere e terrorismo. Questo viene visto come un giro di vite alle libertà di Hong Kong. Sì. Si era cercato di introdurla nel 2003 ed erano scese in piazza mezzo milione di persone a Hong Kong. Il Consiglio legislativo, che è il mini parlamento di Hong Kong, ha cercato di introdurla in qualsiasi maniera, sì, ma sappiamo che all'interno del Consiglio legislativo c'è una forte minoranza pro-democrazia. Sì. Ebbene, adesso si sta cortocircuitando tutto il sistema e si sta decidendo che direttamente da Pechino questa norma può essere introdotta, e che quindi molto probabilmente ancora stanno circolando delle bozze, non si capisce bene quali saranno i termini, però sicuramente andiamo verso una forte restrizione delle libertà a Hong Kong. Compulsando le agenzie negli ultimi minuti, sì, si parla già di assembramenti a Hong Kong, di messaggi che arrivano agli attivisti online, sì, e che invitano a scendere in piazza per protestare. Si parla già di polizia in assetto antisommossa per le vie della megalopoli di Hong Kong. E a questo punto, se domani, come sembra estremamente probabile, la norma verrà presentata e sarà poi ovviamente approvata, sì, nei prossimi giorni poi la palla passerà al governo, che ha tempo fino a giugno, ma siamo appunto di fronte a una manomissione di quello che era il rapporto tra Hong Kong e Pechino, sì, quindi davvero a una... appunto un cortocircuito del un paese, due sistemi. E nelle parole di Antonio Talia si evince come la notizia da questo evento, questo consesso politico poco più che formale che si tiene oggi e domani a Pechino, si doveva parlare soprattutto del Covid-19, ma la notizia, se confermata, sarebbe una bomba. Naturalmente, nel caso, domani torneremo ad aggiornarvi su quello che sta succedendo a Hong Kong, perché è evidente che un'immediata cartina tornasole delle decisioni che vengono prese nei palazzi di Pechino. Grazie mille Antonio Talia per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro Antonio. Noi adesso facciamo una piccola pausa, Valeria, andiamo a sentire come vanno le borse e poi andremo a Taiwan. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presento. Nessun luogo è lontano. Ancora ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano andremo adesso a Taiwan, perché se è vero che il pesante, lunghissimo braccio di ferro che ha ingaggiato Pechino con Hong Kong, che oramai dura da più di un anno, rischia davvero nelle prossime ore di subire una drammatica evoluzione, e stiamo già lavorando sulla puntata di domani, è anche vero che esiste un altro braccio di ferro che è stato consumato forse con più sobrietà, forse lontano dal clamore dei grandi media. Si è consumato all'ombra del Covid-19 con una ottima gestione da parte della presidente taiwanese, e si è consumato mentre la vera grande spina nel fianco, secondo tutti gli analisti, era proprio Hong Kong. Ma se fosse invece l'isola di Taiwan? E allora vi propongo di andare immediatamente a Taiwan. Vera Bernardi, portaci tu, non storcere il naso, perché tanto è la mascherina e quindi non si vede. Metal. Allora, a Taiwan, perché? Perché è un'importante realtà economica e geostrategica. Anche l'Italia, peraltro, ha intessuto negli anni solidi rapporti commerciali. È una sorta di crocevia che permette grandi proiezioni nella Cina continentale, ma anche verso il sud-est asiatico e verso il Giappone. La presidente Tsai Ing-wen, appena giurato per il suo secondo mandato, era già stata eletta, presidente nel 2016, ed è un po' un unicum nella storia dell'isola, perché è la prima donna che ricopre questo incarico. Dalla sua ha una solida carriera politica che ha sempre lottato per l'indipendenza di Taiwan dalla Cina. Secondo molte analisi che si leggono soprattutto sui media internazionali, la presidente sarà sottoposta a una pressione senza precedenti da parte della Cina, e le sfide sono enormi. La prima l'ha già vinta, quella del Covid-19, vi dicevo. 440 casi, 7 decessi. Considerando la vicinanza, la prossimità della Cina, è sicuramente un risultato. Come ha fatto? Beh, uno screening immediato che è iniziato, pensate, nei primi giorni di gennaio, per tutte le persone che arrivavano dalla Cina, appena si era diffusa la notizia di una strana influenza nella zona di Wuhan. E poi un sistema di tracciamento molto molto aggressivo e un sistema di quarantena altrettanto aggressivo. E in sostanza si sono visti, anzi, o meglio, non si sono visti i drammatici bilanci che abbiamo invece osservato in altri paesi. Vi faccio sentire la voce di Tsai Ing-wen, perché sostanzialmente mostra il percorso, la strada che vuole far compiere a Taiwan nei prossimi anni. Sentite. Davanti alle circostanze complesse e instabili di oggi, dobbiamo impegnarci per mantenere pace e stabilità a Taiwan. In questi ultimi 4 anni abbiamo guadagnato il riconoscimento della comunità internazionale e intendiamo proseguire lungo questa strada. E naturalmente parlavo di braccio di ferro prima, quello tra Hong Kong e Pechino e quello appunto tra Taipei e Pechino. Sentite su questo specifico punto che cosa ha detto poche ore fa Tsai Ing-wen. Ci impegneremo nel dialogo con la Cina all'insegna dei principi della pace, della parità, della democrazia. Non accetteremo la visione di Beijing di un paese e due sistemi che declassa Taiwan e mira a mantenere lo status quo. Giusto ieri Pechino ribadiva la posizione della Cina, in particolare lo faceva con un portavoce che avvertiva gli Stati Uniti, i quali appoggiano Taiwan, diceva: l'indipendenza di Taiwan non è una strada praticabile. D'altra parte, la querelle, se volete, a colpi, questa schermaglia a colpi di dichiarazioni, potrebbe farsi risalire, quantomeno a questo livello di violenza, al gennaio 2019. Xi Jinping, sentite cosa diceva. La riunificazione è il naturale esito storico degli eventi passati e la strada giusta, mentre l'indipendenza di Taiwan sarebbe per tutti un esito avverso. Faremo del nostro meglio per arrivare a una riunificazione di Taiwan con la madre patria. Non escludiamo l'uso della forza e prenderemo tutte le misure necessarie. 放弃使用武力, 保留采取一切必要措施的选项. E capite perfettamente che toni bellicosi come quelli uditi nel gennaio del 2019 hanno rappresentato un vero e proprio punto di non ritorno nelle relazioni tra Pechino e Taiwan. Forse però è utile fare un piccolo passo indietro. Abbiamo provato a fotografare Taiwan e l'abbiamo fatto in 90 secondi. Nata sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, cresciuta all'ombra della Guerra Fredda, la Repubblica di Taiwan è un paradosso storico senza paragoni al mondo e anche una delle principali spine nel fianco di Pechino. Finita la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945 in Cina scoppia la guerra civile tra il Partito Comunista Cinese guidato da Mao Zedong e il Partito Nazionalista guidato da Chiang Kai-shek. Nel 1949 la Seconda Guerra Civile si conclude con la vittoria di Mao e i nazionalisti fuggono a Taiwan, l'isola del Pacifico separata dalla Cina solo da un braccio di mare lungo 130 chilometri. Da allora la Cina con capitale Pechino e l'isola di Taiwan si guardano in cagnesco attraverso lo stretto. Per Pechino, Taiwan è solo una provincia ribelle da ricondurre alla madre patria anche con l'uso della forza, se necessario. Taiwan, intanto, si è autoproclamata indipendente ed è legata agli Stati Uniti da un trattato che teoricamente obbligherebbe l'America a intervenire in caso di conflitto. La maggior parte della comunità internazionale riconosce la Cina, facendo di Taiwan uno strano non-stato, che non può chiamare ambasciate le sue rappresentanze diplomatiche in giro per il mondo, non fa parte delle Nazioni Unite e quindi neanche dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità. Oggi Taiwan è una repubblica democratica con libere elezioni, multipartitismo e libera stampa. Conta 24 milioni di abitanti e con i suoi 36.000 km quadrati è uno dei paesi meno estesi dell'Asia. Allo stesso tempo, nonostante l'isolamento diplomatico, è stata una protagonista della crescita economica degli anni 90 e oggi, con un governo che non intende venire a patti con Pechino, è tornata a sfidare la Cina dopo anni di apparente distensione. E se nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, avevamo definito le proteste di Hong Kong, quelle piazze gigantesche riempite da manifestanti, una vera spina nel fianco per il regime comunista e per Pechino, forse ci siamo poco occupati di quello che era invece una silenzioso braccio di ferro, molto molto solido, molto saldo, che forse si è rafforzato anche durante la crisi, scusatemi, del Covid-19, la grandissima opacità da parte di Pechino, la massima trasparenza da parte di Taiwan, due sistemi totalmente diversi evidentemente che si confrontano. Ma che rapporto è quello di tra Taiwan e Cina? È davvero lei la spina nel fianco per Xi Jinping? Lo chiedo a Lorenzo Lamperti, Affari Italiani e ISPI, è il capo di esteri di Affari Italiani e peraltro cura una rassegna settimanale proprio sulle relazioni diplomatiche Italia-Cina per China Files. Lorenzo, buongiorno e benvenuto nel suo luogo lontano. Buongiorno Giampaolo, grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi. Accogli immediatamente la mia metafora: spina nel fianco, è più Hong Kong o più Taiwan? E se così è, quella spina di Taiwan è forse, come dire, più delicata ma lunga, profonda, si affonda nelle carni cinesi, mi sembra di poter dire. Direi che è una metafora perfetta quella che hai usato. Direi che è una ferita storica per Pechino che, come avete fatto sentire giustamente, il discorso di Xi Jinping del 2 gennaio 2019, insomma, rimane lì. L'obiettivo è quello della riunificazione da ottenere per forza entro il 2049, che è il centenario della Repubblica Popolare Cinese. I rapporti chiaramente sono complicatissimi, in particolare dal 2016, perché dalla prima elezione di Tsai Ing-wen presidente, che rappresenta il DPP, che tradizionalmente viene descritto come l'ala più filo indipendentista, diciamo, della politica taiwanese, da lì il dialogo politico si è fermato, perché sostanzialmente c'è uno stallo che praticamente è difficile, se non impossibile, superare. Da una parte Pechino chiede il riconoscimento di questo consenso del 1992, che sostanzialmente era un accordo sul quale si stabiliva il principio di un'unica Cina. Sì. Dall'altra parte Taiwan però chiede invece una relazione puramente bilaterale senza precondizioni da parte di Pechino. Quindi c'è questo scoglio gigantesco che sullo stretto, diciamo, che impedisce un dialogo politico tra le due parti. C'è però anche un rapporto commerciale che invece è sempre molto, molto importante. Ecco. Sì, e peraltro leggevo e ascoltavo qualche servizio di colleghi stranieri, come raccontavano qualche mese fa, anche di un'intensa attività turistica proprio dei cinesi verso Taiwan, segno che comunque anche quella prossimità, no, quella vicinanza, quei pochi chilometri impongono un certo tipo di osmosi, al di là di quelle che sono le identità delle due popolazioni e le visioni politiche. Proprio sull'identità vorrei solleticarti, Lorenzo Lamperti, perché non è facilissimo fotografare il taiwanese e quanto si senta diverso dal cinese. Prima però ti propongo, facciamo una piccola pausa, sentiamo la viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, per raccontare le due spine nel fianco di Pechino. Da un lato Hong Kong, e dopo l'indiscrezione pubblicata dal South Morning China Post, ne vedremo, mi sa, delle belle, e sono assolutamente ironico evidentemente, perché già a Hong Kong sui canali Telegram si stanno radunando i manifestanti, perché la possibilità che Pechino allunghi la mano in maniera ancora più violenta e prepotente sull'ex protettorato britannico si fa sempre più palese. Poi dall'altra parte l'altra spina, che ha nature totalmente diverse, lo abbiamo scoperto e lo stiamo scoprendo anche con la voce di Lorenzo Lamperti, lo ricordo, è il capo esteri di Affari Italiani, collabora anche con ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, e cura una rassegna settimanale sulle relazioni diplomatiche Italia-Cina su China Files. Lorenzo Lamperti, stavo spulciando un pezzo su Al Jazeera che raccontava di una recente indagine, un sondaggio che mostra sostanzialmente, leggo testualmente, che 2/3 della popolazione dell'isola non si identifica come cinese, e un altro sondaggio che risale invece a ottobre mostrava che quasi 1/3 dei taiwanesi erano favorevoli all'indipendenza, mentre il 25% dicono che sono favorevoli a mantenere lo status quo, che è questa strana ambiguità che ci stavi descrivendo prima. Detto ciò, chi sono i taiwanesi? Qual è la loro identità? Domanda da $1 milione o di yuan, per dire la cinese. Ma allora c'è da dire che sicuramente col più passa il tempo e più questo sentimento di alterità identitaria aumenta, perché se andiamo a vedere lo stesso sondaggi che hai citato giustamente tu, se andiamo a vedere gli under 30, il sentimento di taiwanesità pura si alza fino all'83%, e addirittura al 92% tra gli elettori del DPP, quindi della presidente Tsai. Sì. Quindi è un sentimento che più passa il tempo e più questa ferita, questa divisione lungo lo stretto sarà destinata ad aumentare. E aggiungo, aumenta anche proprio per il caso di Hong Kong di cui parlavate prima. A maggior ragione questa legge sulla sicurezza nazionale ritengo che non farà altro che confermare ai cittadini taiwanesi, che confermare la mancata volontà, diciamo, dei cittadini taiwanesi, del governo taiwanese, certo, di immaginare di poter aderire al modello un paese due sistemi. Certo, peraltro non è un caso, Lorenzo, perdonami, ti interrompo per ricordare agli ascoltatori che c'è un cordone, in qualche modo un filo rosso, scegliete voi la metafora che preferite, che lega Hong Kong a Taiwan, e proprio nelle recenti elezioni taiwanesi vi fu anche una delegazione di hongkongesi che andò ad osservare come si svolgeva in una libera democrazia quello che essi stessi avrebbero agognato per Hong Kong. Quindi è evidente che l'uno in qualche modo è lo specchio magari anticipatorio o posticipatorio di quello che potrebbe avvenire. In mezzo c'è Pechino, ma in mezzo c'è anche, Lorenzo Lamperti, Affari Italiani e ISPI, la presidente Tsai Ing-wen. Ti propongo di aiutarci a fare un profilo per capire questa donna, caso unico nella storia taiwanese a ricoprire questo ruolo, però per aiutarci nella discussione ti faccio sentire la voce di Chen Cheye, che è una giornalista taiwanese, vive in Italia e scrive per una rivista online di Taiwan, News e Market, che ci racconta le principali sfide della presidente nel suo secondo mandato. Sentite. come gli altri paesi, la sfida davanti alla Presidente Tsai Ing-wen è come trovare l'equilibrio di controllare la pandemia e l'economia. Quando l'epidemia è scoppiata a Wuhan, Taiwan ha reagito subito e ha grande successo a bloccare i contagi di coronavirus. Ma Taiwan sì, non ha fatto lockdown come maggior paesi come in Italia. Ma quando i popoli taiwanesi sono molto attenti, oppure hanno abbastanza paura, i consumi crollano. Poi le frontiere di Taiwan sono semi-chiuse. Allora adesso come riaprire le porte, ma ancora tenere il virus fuori dalla isola è la prima sfida principale. Tutto ciò, la sfida più grande è proprio il rapporto con la Cina. Con il coronavirus, Taiwan ha forzato come comunità immaginate a combattere il virus partito dalla Cina. Nazionalismo è forzato sia in Taiwan che in Cina sotto Xi Jinping. Per cui allora rischia di avere uno scontro tra la Cina e Taiwan. La sfida più grande è il rapporto con la Cina. Con il coronavirus, Taiwan ha forzato come comunità immaginate a combattere il virus che è partito dalla Cina. Nazionalismo è forzato sia in Taiwan che in Cina sotto Xi Jinping. Per cui rischia di avere uno scontro. Un segno molto importante durante il discorso di Tsai Ing-wen. Lei ha detto che vuole una commissione di riforma della Costituzione. Qua potrebbe cambiare qualcosa di status quo di Taiwan? Oppure allora forse cambia come definire il rapporto con la Cina? Adesso ufficialmente Taiwan si chiama Republic of China, ma sempre più taiwanesi vogliono essere chiamati proprio Taiwan. Le parole di Chen Qiyi, giornalista taiwanese, risiede in Italia, scrive per News & Market, magazine online taiwanese. Lorenzo Lamperti, la prima sfida è il virus, la seconda il rapporto con la Cina, la terza in qualche modo la visione diversa dei due nazionalismi, da una parte quello taiwanese, da una parte dall'altra quello cinese. Quale di queste tre sfide secondo te è quella principe, ecco, per la Presidente? Ma direi che quella principe è il tema identitario, è quello che è il filo rosso che ha permesso a Tsai di vincere le elezioni di gennaio 2020. Ricordiamolo che è stato proprio su quello che ha costruito la sua campagna elettorale. Vorrei però dire che Tsai viene spesso descritta come filo, insomma, non è l'estrema pro-indipendenza, pro-indipendentista che si pensa, ecco. Anzi, si va verso nei prossimi anni una composizione diversa, dove il DPP rappresenterà un po' il centro, un grande centro politico, perché il Kuomintang, che è quel partito invece più vicino tradizionalmente a Pechino, sarà per forza di cose dovrà rinnovare la sua narrativa, perché per tutti i discorsi che facevamo prima. E vorrei sottolineare che in realtà è vero che un terzo dei taiwanesi vuole l'indipendenza, ma la vuole come fine ultimo, diciamo, non in questo momento. Solo il 6% chiede una richiesta di indipendenza immediata. È questo come se ci fosse, perdonami Lorenzo, poca ideologia ma molta pragmatica nella mentalità taiwanese, correggimi se sbaglio. Ma sì, più che altro, sai, hai di fianco un vero e proprio gigante in ascesa strategica, certo, geopolitica, e quindi il timore anche di un'ipotetica reazione c'è, perché io ritengo che l'unica opzione, davvero, si parla in questi giorni di opzioni militari, invasioni militari, che io penso che in realtà si connetta di più alla retorica politica che c'è in questi giorni per gli importanti appuntamenti di cui hai parlato prima. Però una dichiarazione unilaterale di indipendenza come Repubblica di Taiwan, perché Repubblica di Cina è a tutti gli effetti in questo momento piaccia o non piaccia, ha un governo diverso, quindi non è controllata da Pechino. Certo. Ma una cosa è Repubblica di Cina, una cosa è Repubblica di Taiwan. Nel caso ci si fosse una dichiarazione unilaterale di indipendenza come Repubblica di Taiwan, ecco, questo potrebbe essere l'unico scenario che davvero aprirebbe a una reazione vigorosa, diciamo così, certo, da parte di Pechino. Certo, e lì poi lo scenario sarebbe difficilmente prevedibile con il supporto statunitense. Qualche ascoltatore ricordava di manovre statunitensi proprio nell'area, qualche scaramuccia a distanza, evidentemente qualche occhiata malevola attraverso i binocoli con i cinesi. Torneremo sul tema, perché grazie anche a Lorenzo Lamperti abbiamo compreso come non solo Hong Kong ma anche Taiwan sia un grandissimo termometro delle relazioni di Pechino con queste realtà satellitari che ogni tanto si fanno sentire più delle altre, sgomitano. Qualcun altro ci chiedeva perché non parlate mai del Tibet, ci torneremo. Intanto fatemi ringraziare Lorenzo Lamperti, Affari Italiani ISPI. Buona giornata Lorenzo, grazie mille, buon lavoro. Grazie Gianpaolo, grazie a voi. Intanto Antonio Tale mi segnala che in corso a Hong Kong una conferenza stampa d'emergenza dei parlamentari del Fronte Democratico, Dennis Kwok. È ovvio che questa è la fine del un paese due sistemi, la fine di Hong Kong come centro finanziario mondiale. Questo è un po' il grido di battaglia che arriva da Hong Kong, ne parleremo sicuramente domani, perché adesso Valeria Bernardi mi dice... Io ringrazio voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.